Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, l'inferno di Dante ispira un altro scrittore americano. Dopo Dan Brown arriva Glenn Cooper con Dannati. È il primo volume di una serie. Un romanzo dickensiano per Michele Mari. Roderick Duddle è l'avventura di un ragazzino in fuga nell'Inghilterra dell'Ottocento. È nato Books in Italy, portale per far conoscere i libri italiani all'estero. In primo piano oggi c'è il nuovo romanzo dell'americano Glenn Cooper, scrittore, medico, produttore cinematografico, se non erro, e anche archeologo. Il suo nome è diventato famoso anche da noi in Italia con la trilogia della Biblioteca dei Morti. Insomma, erano tre libri, la Biblioteca dei Morti, appunto, Il Libro delle Anime e I Custodi della Biblioteca. Altri romanzi scritti da Glenn Cooper, per esempio La mappa del destino e Il calice della vita. In Italia complessivamente Cooper ha venduto circa 2 milioni di copie appunto con i vari libri. In molti lo associano a Dan Brown e come Dan Brown, per il suo ultimo romanzo Glenn Cooper ha deciso di ispirarsi all'inferno di Dante. Il nuovo romanzo si intitola infatti Dannati, pubblicato in Italia da Editrice Nord con la traduzione di Paolo Falcone. Brevemente la trama: c'è un uomo, John Camp, che decide di seguire all'inferno la sua fidanzata Emily, che fa la scienziata. Infatti lei, durante un esperimento andato a male, è, come dire, scivolata dalla nostra dimensione nell'aldilà. Da qui una serie di avventure e disavventure per tornare al mondo reale. Adriano Palazzolo ha incontrato Glenn Cooper e gli ha chiesto innanzitutto da dove è nata l'idea di questo romanzo ambientato nell'inferno. Sentiamolo. Well, I've been interested for a very long time on notions of good versus evil. Sono sempre stato interessato al concetto di lotta tra bene e male e ho già parlato della natura del male in alcuni dei miei precedenti romanzi, ma volevo farne un'analisi più ampia, includendo anche le conseguenze che provoca il male e la metafora ultima di ciò che è il nostro concetto di inferno. Quindi per me è stato naturale andare verso questa direzione. Durante la lettura del romanzo non ho potuto fare a meno di pensare a Dante Alighieri e alla sua commedia. C'è qualche collegamento? Well, only in the sense that there's a similar theme of a. Solo nel senso che c'è un tema simile, di un eroe che discende all'inferno per trovare la donna che ama. Il mondo che ho creato è molto diverso dall'inferno di Dante e credo lo troverete unico. Diverso da ciò che è stato scritto finora o da come è stato immaginato. Il libro racconta di un uomo che scende all'inferno per salvare la sua amata che è finita lì a causa di un esperimento scientifico andato male. Però Emily è una donna contemporanea, moderna, piena di risorse che cercherà da sola di tornare a casa. Ci può parlare del suo personaggio? Well, certainly I've known a lot of very strong women in my life. I trained as a doctor. Di sicuro ho conosciuto molte donne forti nella mia vita. Quando ho fatto il tirocinio in medicina, molte colleghe erano donne. Poi nel mondo delle multinazionali, in cui ho lavorato, erano molte le donne con ruoli di comando. Ho voluto che la protagonista fosse forte, piena di risorse e intelligente come l'eroe maschile. Ma i due si completano a vicenda e insieme formano un team vincente. Neither is completely strong, neither of them is weak. The two of them together create a very powerful team. Secondo lei esistono ancora le donne al giorno d'oggi che hanno bisogno di essere salvate? E qual è il ruolo dell'eroe uomo, sia nella società che nella letteratura? Everyone needs to be saved by someone else, I think, whether it's a man saving a woman or a woman saving a man. Chiunque ha bisogno di essere salvato, che sia un uomo che salva una donna o viceversa. I concetti di fragilità femminile e forza maschile non funzionano più. Questo è un altro motivo per cui ho voluto un Emily forte e tosta quanto John, ma alla fine lei avrà bisogno del suo aiuto. She does need help to get back, and he provides that help. Glenn, per sua stessa ammissione, Dannati è il primo volume di una serie. Emily e John torneranno all'inferno o esploreranno altre dimensioni? The the scope of the story was very large. It couldn't be contained in just one book. Il disegno della storia è molto ampio e non poteva essere contenuto in un solo libro. Sicuramente rivedremo Emily e John durante la serie e impareremo di più sul mondo dell'inferno, sul personaggio misterioso che sta cercando di renderlo un posto migliore e sui collegamenti tra le due dimensioni. È una storia che prenderà almeno tre libri, se non di più. Will take at least three books and maybe more to complete. Qual è il suo rapporto con l'aldilà? Crede in una dimensione ultraterrena o magari in più di una? So I make a point of not talking about any of my personal. Ho deciso di non parlare di nessuna mia convinzione personale su religione e filosofia. Nei miei libri voglio porre domande e fare in modo che le persone traggano le loro conclusioni. Io non scrivo per indottrinare o convincere nessuno. Voglio essere come una pagina bianca e lasciare il dibattito ai lettori. L'Inferno di Dannati è una sorta di società medievale con degli inserti di società moderna fino al 700-800. Perché la scelta di ambientarlo proprio in un'epoca così particolare? The hell that I've envisioned is a place where all the evil men and women who ever lived from the beginning of time. L'inferno che ho immaginato è un posto dove tutti gli uomini e tutte le donne che hanno commesso del male dall'inizio dei tempi si trovano condannate per l'eternità. E per questo motivo è davvero un mix di epoche passate, da Stonehenge all'epoca moderna. E ho cercato di immaginare l'evoluzione della tecnologia in un posto come questo. Inoltre non c'è procreazione, non ci sono bambini. C'è solo un'eternità di vita deprimente e penso che senza una speranza per il futuro non ci sia cooperazione, progresso o innovazione. Ci sono flash di modernità, ma per il resto ho pensato a una società medievale, simile all'Europa del 1300-1400. Lei possiede anche una casa di produzione cinematografica. Perché i suoi libri non sono mai diventati dei film? My company does small independent films, small budget films. The kind of books I write are. La casa di produzione che possiedo fa piccoli film indipendenti a basso budget. I miei libri richiedono un budget molto sostanzioso. Ma recentemente ho chiuso un accordo per una produzione televisiva per la Biblioteca dei Morti, che speriamo di vedere nel prossimo futuro. Glenn, lei è un autore di successo che vende da anni milioni di copie. Come vive l'uscita di un nuovo romanzo? Le è rimasta un po' di ansia da prestazione? Always, you know, you write in isolation. Sempre. Io scrivo in solitudine e sono davvero poche le persone che leggono la mia bozza, le persone fidate della casa editrice, i membri della mia famiglia e gli amici. E all'improvviso il libro arriva al pubblico e vivo il lancio in uno stato di grande tensione. Ma nei prossimi giorni le persone finiranno di leggere il libro e mi diranno cosa ne pensano. Così saprò com'è andata. E questo era Glenn Cooper, ora in libreria con Dannati, pubblicato in Italia da Editrice Nord con la traduzione di Paolo Falcone. L'intervista era di Adriano Palazzolo. Veniamo ora a un romanzo italiano. Anche in questo caso si tratta di un romanzo d'avventura, anche se con, come dire, scenari e stili completamente diversi. Parliamo di Roderick Duddle, scritto da Michele Mari, pubblicato da Einaudi. È stato uno dei 5 romanzi finalisti al Campiello di quest'anno. È un romanzo d'avventura, insomma, come dicevamo, sono quasi 500 pagine, insomma, un romanzo corposo. Il protagonista è questo ragazzino, Roderick, che è figlio di una prostituta. Quando la madre muore, insomma, lui è ancora piccolo, lui fugge dal bordello dove la madre l'aveva cresciuto, anzi, per la verità, viene cacciato da questa osteria all'Oca Rossa, e ha con sé un medaglione che potrebbe farlo riconoscere come l'erede universale di una grande fortuna, e quindi una serie di malviventi inizieranno a dargli la caccia. È un romanzo appassionante, Michele Mari scrive molto molto bene. Ci sono dei momenti in cui io stessa mi sono un po' persa perché la trama è un po' complessa, però basta insomma leggerlo con calma. Poi c'è addirittura a un certo punto del romanzo una specie di riassunto delle puntate precedenti, quindi insomma un romanzo d'avventura che forse, se non fosse per alcune scene, potrebbe essere letto anche dai ragazzi. E allora su questo romanzo dickensiano, Roderick Duddle, sentiamo Michele Mari. La trama si spiega in modo molto, molto esteso e molto arioso e procede per continue complicazioni sul modello del romanzo d'appendice, che essendo legato alle puntate, allo spazio delle singole testate che contenevano appunto la singola puntata, doveva compensare l'interruzione che produce di solito distrazione, disaffezione, disinvestimento, doveva compensarla con un incremento di suspense, di interesse, quindi rilanciare continuamente, alzare la posta, complicare, aggiungere nuovi ostacoli, nuovi problemi, nuovi personaggi. E in questo senso io ho lasciato la briglia sciolta ai miei personaggi, li ho accumulati e ho lasciato che si muovessero quasi autonomamente. So che è impossibile, essendo proiezioni della mia fantasia, creature di carte e di inchiostro, però io in un certo senso credo di essere riuscito in questo autoinganno, no? Consistente nello scrivere questo libro non con una olimpica superiorità, non programmando tutto, ma con la parzialità di visione, quindi coi patemi, le ignoranze, i dubbi, gli errori di chi guarda ad altezza d'uomo, ad altezza reale, stando tra i personaggi, con l'animo di un lettore più che di uno scrittore. Nella narrazione lei si rivolge direttamente al lettore, cioè addirittura a un punto in cui fa un breve riepilogo, come si fa appunto nelle soap opera, per esempio, sì. Dice nelle puntate precedenti, sì. Perché effettivamente la trama a un certo punto si ingarbuglia. Perché ha deciso così di rompere questa parete, di avere questo stile? Ma innanzitutto non ho inventato nulla, ho ripreso i modi del romanzo, soprattutto settecentesco, che sono modi più salottieri, più civettuoli, anche se di una civetteria perfida a volte, sadica. Sono i modi appunto del romanzo, soprattutto inglese del Settecento, che creano non solo una sorta di complicità tra l'autore e il suo lettore, ma raffreddano anche un po' la temperatura del racconto, no? In quanto creano uno straniamento, infrangono l'illusione e di colpo riportano il lettore di fronte alla figura non dei personaggi ma dell'autore. E probabilmente credo che sia stata una scelta istintiva a correttivo parziale di quello che sentivo come un pericolo insito nel tema patetico del ragazzino sventurato, del ragazzino dickensiano in un mondo di adulti cattivi. Cioè sentivo che potevo correre il rischio del patetismo, del sentimentalismo, che ovviamente non è il sentimento, no? E quindi per tenere a freno questa materia che poteva un po' debordare, poteva indurmi a delle sbavature sentimentali, ho assunto proprio per profilassi emotiva, per una sorta anche di igiene stilistica, questo continuo chiacchiericcio dello scrittore sul suo lavoro e nei confronti del lettore. Stava citando Dickens, beh, sì. C'è tanto Dickens nelle atmosfere, nelle cose che succedono a questi personaggi, ma c'è anche tanto romanzo di avventura, sì. Anche il fatto stesso che ha disegnato la mappa di questi, dei luoghi, no? Come se fosse la mappa dell'Isola del Tesoro, sì, di Stevenson. Ovviamente Dickens è il primo riferimento, perché è autore di libri come Oliver Twist e come David Copperfield, che sono come dire, fondano il canone della letteratura raminga del ragazzino insidiato e vessato dal mondo degli adulti, dal mondo dell'interesse economico, del cinismo, del desiderio, della libidine. E però c'è anche Stevenson, soprattutto nella seconda parte del libro, quella con l'avventura, diciamo, in mare, sulla nave, sulla Rebecca, da parte di Roderick, e credo che aver tradotto L'Isola del Tesoro 2 anni fa per la Rizzoli abbia lasciato un segno, cioè più che un segno abbia depositato un seme, mi abbia fatto venire una gran voglia di continuare a dialogare con quel mondo e muovermi su quei tavolati, insomma su quello scenario. Si chiama Books in Italy, preciso che c'è la S, quindi books, libri al plurale, perché se andate con Book in Italy a cercarlo su Google trovate le prenotazioni degli alberghi e parliamo di tutt'altra cosa. Che cos'è Books in Italy? È un nuovo sito internet, un portale, insomma lo possiamo definire, che ha come obiettivo quello di promuovere l'editoria italiana nel mondo. Quindi è scritto sia in italiano che ovviamente in inglese, altrimenti insomma gli stranieri non saprebbero che cosa scriviamo in Italia. E questo sito internet è promosso dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, poi c'è il Centro per il Libro e la Lettura, insomma ci sono varie associazioni anche che contribuiscono, e fra queste c'è la Fondazione Mondadori che coordina proprio questo progetto. Luca Formentone è il vicepresidente della Fondazione Mondadori. Formentone, allora, abbiamo detto che serve un po' da vetrina questo sito internet. Immagino che l'obiettivo sia quello di cercare di vendere il più possibile i libri italiani nel resto del mondo, insomma. Siamo partiti con Fondazione, questa è un'idea di Fondazione Mondadori, sull'esempio di quello che c'è all'estero, quindi non è che abbiamo scoperto niente di particolare. Abbiamo visto che ogni nazione europea ha un portale che presenta la propria produzione editoriale all'estero, quindi lo scopo principale di Books in Italy è quello di presentare la produzione editoriale e più in generale la cultura italiana all'estero, con uno strumento oggi normale, che è appunto quello di un sito web, fatto in modo che il maggior possibile numero di informazioni sull'uscita dei libri, sulle tipologie di editori, raggiunga un pubblico estero vasto. Naturalmente possono essere interessati, faccio un esempio, editori stranieri, ma anche agenti letterari che probabilmente vogliono acquisire i diritti su un determinato romanzo, un saggio, insomma un libro italiano, perché si parla di tutta la produzione editoriale italiana. Si parla assolutamente di tutta la produzione editoriale italiana, e proprio per dirlo agli ascoltatori, andatevi a vedere il sito, perché è fatto in modo che sia il più facilmente accessibile la produzione editoriale. Un esempio, ci sono vedrete nella home page dei libri italiani con una breve scheda di lettura in inglese, ovviamente fatta apposta. C'è la doppia lingua, insomma, inglese e italiano. C'è l'inglese e italiano, e alla fine anche la scheda è corredata sui motivi per cui questo libro andrebbe tradotto all'estero. Poi naturalmente è pieno di una serie di informazioni pratiche che servono all'editore o all'agente straniero per mettersi in contatto con la casa editrice. Infatti sul libro, poi cliccando sul libro, si hanno tutte le informazioni dell'ufficio diritti della casa editrice e tutte le informazioni che sono utili a un agente traduttore editore straniero per mettersi in contatto con la casa editrice. Poi un'altra cosa che c'è nel sito, oltre ovviamente a questa possibilità di... c'è un'anagrafica generale degli editori, per cui gli editori che partecipano, ripeto, tutti gli editori che partecipano, abbiamo tutte quelle informazioni utili che servono per far conoscere. Aggiungo una cosa importante: come ha già sottolineato il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Marco Polillo, questo è un sito che viene in aiuto soprattutto ai piccoli editori indipendenti. Perché? Perché ovviamente i grandi gruppi editoriali hanno un contatto con l'estero, hanno possibilità molto superiori attraverso gli scout, attraverso le loro sedi estere, quando ci sono, di presentare la propria produzione. Il piccolo editore indipendente ovviamente con questo sito ha il modo di far conoscere la propria produzione a un pubblico molto più vasto di quello che potrebbe raggiungere con le sue forze. Anche perché, lo ricordiamo, siamo alla vigilia di Francoforte, che per gli addetti ai lavori è l'appuntamento più importante, insomma, a livello mondiale per la compravendita di diritti dell'editoria. Insomma, il piccolo editore sì, magari riesce ad arrivare a Francoforte, ma non riesce a partecipare alle aste, non riesce a proporre i suoi prodotti, visto che lì c'è praticamente il mondo. Esatto. Quindi questa può essere una vetrina alternativa. Assolutamente. Ma chi è che sceglie adesso, per esempio, se io apro la home page di Books in Italy, trovo in evidenza due romanzi italiani. Chi è che sceglie? C'è un equilibrio fra le varie case editrici, insomma, come viene fatta la selezione? Allora, la selezione, innanzitutto i libri vengono proposti direttamente dagli editori, quelli che ritengono siano passibili o potenzialmente fruibili per una traduzione estera, e vengono presentati a rotazione, quindi non c'è un prima o un dopo. I titoli sono tutti presenti e a rotazione vengono presentati tutti quelli che gli editori propongono, quindi sono gli editori che propongono la scelta, non c'è una scelta a prioristica a monte, di certo, qualche comitato che decide questi sì, quelli no, è proprio l'editore stesso che propone i suoi titoli. Questo libro potrebbe avere delle chance, esatto, per essere pubblicato all'estero. Poi naturalmente, andando avanti, ci sarà anche una piccola redazione di Books in Italy per seguire tutti i problemi editoriali di un sito web che comunque va, certo, alimentato e non è che si autoalimenta da solo, ovviamente. Ecco, negli ultimi anni si parla moltissimo della possibilità di pubblicare libri italiani in Cina. Sappiamo che i cinesi sono molto interessati soprattutto al comparto design, food, molto meno probabilmente ai nostri romanzi. C'è da parte vostra, degli editori, sempre comunque il sogno di poter arrivare nel mercato cinese, che potenzialmente è fatto appunto da miliardi di lettori, quindi insomma fanno gola a tutti. Ovviamente è un nostro desiderio, pur con culture e mondi diversi. D'altra parte, come noi leggiamo romanzi cinesi, ricordo solo un autore per tutti, il Nobel Mo Yan, di cui io peraltro sono un appassionato lettore, credo che sia benissimo possibile l'inverso. Nella mostra, peraltro, la mostra di cui parleremo se parleremo. Ecco, sì, tra no, poco. Allora parliamo della mostra. Questa è una mostra che è dedicata all'editoria milanese, perché Milano è la città dell'editoria italiana. Insomma, qui ci sono la maggior parte delle case editrici, sì. Insomma. La mostra si chiama Milene Place to Read. Perché abbiamo inventato questo nome per la mostra? Beh, partendo da una considerazione che non è così scontata. Milano è percepita soprattutto negli ultimi 30 anni come luogo del design e luogo della moda, e con ragione anche. Però ci si dimentica spesso che è anche il luogo dell'editoria. A Milano ci sono le principali gruppi editoriali italiani, ma non solo, sono nate molte delle case editrici grandi, piccole, indipendenti negli ultimi 50 anni. E, tanto per dare un dato, uno rappresenta il 38% dell'intera produzione libraria nazionale. Quindi con questa mostra, che attualmente sta girando per tutti gli istituti italiani di cultura all'estero e approderà nel maggio dell'anno prossimo all'Expo, si vuole invitare un visitatore dell'Expo a conoscere città anche da un punto di vista editoriale, sia dal punto di vista delle case editrici, sia dal punto di vista degli scrittori, sia dal punto di vista dei lettori. Grazie a Luca Formentona, vicepresidente della Fondazione Mondadori, per averci illustrato, per averci parlato sia della mostra che del sito, questa vetrina del Made in Italy editoriale nel mondo, perché appunto è scritto in italiano e in inglese. Il sito, ve lo ricordo, si chiama Books in Italy, mi raccomando la S, perché altrimenti andate a finire sui siti di prenotazione degli hotel, che insomma sono tutta un'altra cosa, e lo trovate naturalmente sul web. Anche per noi che non siamo strettamente addetti ai lavori, può essere utile per conoscere le novità che ci sono nel panorama editoriale italiano. E prima di chiudere, permetteteci una piccolissima autocelebrazione. Oggi, 4 ottobre, sono i 15 anni di Radio 24. E abbiamo chiesto un augurio speciale a un ascoltatore, che è anche uno scrittore, Massimo Carlotto. Radio 24 è la radio che ascolto quando viaggio in macchina, e mi capita spessissimo. E ascolto un sacco di programmi, mi piace moltissimo l'informazione e soprattutto il cacciatore di libri, ovviamente. E quindi per questi primi 15 anni tantissimi auguri. Beh, ovviamente Carlotto non poteva non citare il cacciatore di libri, insomma, quasi pistola puntata alla testa, diciamo così. Allora grazie a Massimo Carlotto, a tutti gli altri ospiti di questa puntata, grazie in regia Roberto Scaltritti. Come sempre vi ricordo che mi trovate su Twitter come Ale Teddina e su Facebook come Il Cacciatore di Libri - Radio 24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.